1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui anche oggi, 7:18 minuti, cari debosciati amici miei, che vi siete svegliati solo a quest'ora e state facendo ancora colazione, beati voi. Ora però, forza, darsi da fare. E allora oggi parleremo con la deputata del Movimento 5 Stelle Roberta Lombardi e con il deputato del Partito Democratico Federico Gelli di quello che sta succedendo alla Camera per la vicenda dell'arresto che doveva essere calendarizzato ieri, è slittato oggi e forse però slitterà dopo le elezioni. L'Aula si deve pronunciare sull'arresto di Francantonio Genovese, deputato del Partito Democratico. Accuse incrociate, accuse di volere fare dei giochi politici sporchi, reciproci, ne vedremo delle belle, ne sentiremo delle belle e cerchiamo di capire, insomma, questa vicenda come andrà a finire. Questo dalle 8:15. Ora intanto andiamo a leggere i giornali. In questo giovedì 15 maggio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, come altri quotidiani, sceglie la novità sul bonus. Bonus ai lavoratori in cassa, questo è il titolo di prima pagina, l'importo anticipato dall'azienda sarà subito compensato. Così apre il Sole, anche per la Stampa, il bonus di 80 euro anche ai disoccupati. È il Secolo XIX, bonus anche ai disoccupati. Poi la vicenda del presunto complotto del 2011 per far cadere Berlusconi. Napolitano, nessun complotto. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Il giornale accusa, Napolitano scappa, mentre l'Unità, il Colle, sbugiarda Berlusconi. La vicenda Expo campeggia ancora in prima pagina di Repubblica. Expo, la cupola esiste ed era Berlusconi il referente di Frigerio. Questo è il titolo virgolettato, è la dichiarazione di Maltauro, l'imprenditore arrestato. Ma l'altra notizia sull'Expo sono le fratture in procura. Milano, pool a pezzi su formigoni ed Expo. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano. E così Libero, giustizia impazzita, guerra tra i magistrati. Mentre il Messaggero si concentra su Alitalia, gli arabi, così cambia Alitalia. Etihad invia il piano ai soci, in 5 anni una compagnia a 5 stelle, ma c'è l'incognita esuberi. La vicenda invece dell'immigrazione, l'ennesima tragedia, il Papa basta stragi, l'Unione Europea taglia i fondi, questo è il titolo di prima pagina di Avvenire, mentre immigrati e invasione, così titola il quotidiano nazionale. Io ho lasciato per ultimi questi due articoli perché oggi voglio partire dalla lettura di due pezzi che trovate, uno su Repubblica e uno sul giornale, che davvero a volte gli articoli vanno letti perché raccontano, andrebbero letti nella loro totalità, perché raccontano con parole molto intense quella che è una vicenda di cronaca. Repubblica comincia da qui e dall'articolo che Attilio Bolzoni mette in prima pagina, un articolo che per la verità è corredato da foto, purtroppo le foto alla radio non si possono vedere, ma che vi invito ad andare a guardare su Repubblica. Per la prima volta Repubblica mette in pagina le foto dei cadaveri dei migranti in fondo al mare, fotografati in fondo al mare. Migranti, le foto mai viste dei morti in fondo al mare. Attilio Bolzoni, guardate cosa c'è oltre le nostre parole, i nostri articoli, le storie che raccontiamo ogni volta che si inabissa un barcone. Guardate questi corpi che si abbracciano in fondo al mare. È tutto quello che resta di loro, corpi. Su uno sfondo azzurro bello, dove intorno sembrano nuotare anche i pesci, o forse sono solo piccole boe trascinate giù dalle correnti. Guardate e poi ripensate alle parole naufragio, migranti, Mediterraneo. Scivolano così velocemente che neanche ce ne accorgiamo, le ripetiamo, le scriviamo sempre il giorno dopo, un reportage, un titolo, un numero, 120, 285, 366, che riferisce la portata della tragedia. È un'altra di quelle parole, tragedia, tragedia del mare. Ci siamo abituati, siamo addestrati a riportare con dovizia di particolari le dinamiche degli affondamenti, ogni dettaglio curioso. Ma li avete visti? Li avete visti davvero questi corpi? Guardateli da vicino, per favore, guardateli e diteci se abbiamo visto bene anche noi. Diteci se c'è un uomo che stringe con le sue braccia una donna. Se ci sono due neri stesi sulla sabbia, chissà a quale profondità, che sembrano dormire. Se c'è un ragazzo a testa in giù, a piedi in su, che cerca disperatamente un appiglio per resistere un altro secondo. Se c'è una ragazza che non ha volto, ma una cintura che luccica anche in fondo al mare. Sembra in posa, come una modella morta. Non avrei mai immaginato, scrive Bolzoni, di ritrovarli così, quelli di cui tanto ho scritto in questi ultimi 15 anni senza sapere nulla e tutto di loro, dei loro viaggi, delle loro paure. Non avrei mai immaginato di ritrovarmeli davanti agli occhi incastrati a prua o a poppa, immobili come manichini, come se stessero ostentando la loro naturale morte. Non l'avrei mai immaginato nemmeno quando la domenica del 15 settembre 2002 stavo su un gommone di fronte alla spiaggia di Realmonte e i sommozzatori sollevavano i cadaveri degli etiopi rimasti intrappolati sul loro barcone a mezzo miglio dalla costa, davanti allo scoglio degli ziti, gli innamorati. I cadaveri li vedevo issare a bordo, eppure mi sembrava logico, normale anche quello, erano annegati, morti per asfissia. Un vigile gridava «Tira, Rosario, tira!» L'altro tirava e una volta risaliva una ragazzina nuda, un'altra volta un vecchio, un bambino riccio. Più di loro, inanimati, già rigidi, più della loro morte, mi aveva colpito cosa custodivano nelle tasche dei giubbotti. Bacche. Si nutrivano solo di bacche mentre attraversavano il grande mare. Ma non riuscivo a vederli e immaginarli giù, quando era ancora sotto, dove erano morti. Non riuscivo a capire come erano morti e come avevano scelto di morire, in quale posizione, vicini a qualcuno, lontano da tutti. Non l'ho immaginato neanche il 4 ottobre scorso. Repubblica, in questo pezzo molto molto intenso di Attilio Bolzoni, pubblica appunto le foto dicendo: ecco, ora ve li facciamo vedere come sono morti e come sono adagiati in fondo al mare. L'articolo a pagina 2 e 3 e comincia in prima pagina come un altro articolo corredato da altre foto, da altri volti, ma sempre sullo stesso tema. Lo trovate sul Giornale a pagina 16 e 17. Queste sono le facce dei mercanti d'uomini. Spesso si dice questa parola, scafisti. Eccoli qui. Valentina Raffa scrive questo articolo corredato da decine di foto segnaletiche. Ray Torres, nigeriano, 24 anni, ha trasportato 200 persone, tra cui molti neonati. Omar Chese, nato in Gambia, 19 anni, accusato di aver trasportato 110 immigrati. El Mestri Aitem, tunisino, 26 anni, grida in italiano aiuto alle navi dei nostri soccorritori, ma è lui lo scafista. Benomor Aymen, tunisino, 18 anni, immortalato dal cellulare di un immigrato. Ali Fouda, egiziano, 28 anni, scafista, reo confesso dello sbarco di 327 clandestini. E così via. Ci sono almeno una trentina di volti. I volti, le facce dei mercanti d'uomini e le loro storie, le storie di chi trasporta, sono storie di soprusi e violenze, come racconta Valentina Raffa. Una sera, sentite questa testimonianza, una sera, dopo essere stata costretta a uscire dal capannone in cui tenevano il mio gruppo segregato, mi hanno ripetutamente violentata ed erano in tre. Lascia di stucco il racconto di una giovane appena maggiorenne sopravvissuta al tragico sbarco del 3 ottobre a Lampedusa, in cui persero la vita 366 migranti. Ecco come gli scafisti trattano gli immigrati che traghettano come bestie da una sponda all'altra del Mediterraneo. Mi hanno bloccato le braccia, mi hanno versato in testa della benzina. Il viso, gli occhi, il cuoio capelluto mi bruciavano. A quel punto hanno abusato di me. Fanos, Eritrea, malgrado tutto, si sente fortunata perché dice: una volta rientrò solo una delle due ragazze costrette a uscire per soddisfare i bisogni dei carcerieri. È il libro nero delle imprese dei mercanti d'uomini, un racconto di orrore, stupri, percosse, torture con scosse elettriche. E poi le privazioni, l'impotenza dinanzi ai soprusi, alle violenze in capannoni che fungono da campi di concentramento prima dell'imbarco. È il volto nascosto dei viaggi della speranza in mano a soldati di gruppi criminali che affermano la loro supremazia sugli immigrati, tra cui donne e bambini, che di fatto sono prigionieri. Inizia così questo racconto di Valentina Raffa e appunto tutto tutte le foto, i volti degli scafisti. Le foto dei cadaveri, le foto degli scafisti e due articoli sul tema dei migranti che, come dice l'Unione Europea, che ha tagliato i fondi per i controlli, tagliato, proprio nel momento in cui sono aumentati dell'800% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quest'anno, nel 2004, gli sbarchi. O più 800% quest'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E l'Unione Europea taglia i fondi per i controlli. Questo, per esempio, è il titolo che trovo sul Quotidiano Nazionale, ma lo trovate su tutti i giornali. Insieme a queste due storie, davvero ve le segnalo, sia su Repubblica sia sul Giornale, le trovate. E noi ci fermiamo per la pubblicità, dopo ripartiremo dalle notizie più legate alla politica, a cominciare dalla novità, gli 80 euro anche ai cassi integrati. 24 mattino. E allora alle 7:33 minuti, eccoci qua, la novità che dai giornali si può apprendere e riguarda il bonus degli 80 euro che andranno anche ai cassi integrati. E il titolo del Sole 24 Ore lo trovate a pagina 3, bonus a recupero sprint per le aziende. Giuseppe Maccarone e Mauro Pizzin raccontano appunto le novità. Sospiro di sollievo per aziende e sostituti d'imposta, la compensazione delle somme anticipate dal datore di lavoro dai committenti per pagare a dipendenti e collaboratori, il bonus di 80 euro potrà avvenire col modello F24. Il diritto al credito inoltre spetterà automaticamente ai lavoratori in cassa integrazione o con indennità di mobilità e di disoccupazione. Il bonus verrà erogato direttamente dall'INPS. Queste alcune delle principali indicazioni contenute nella circolare delle entrate che ha risolto intanto il problema delle compensazioni che preoccupava quei sostituti d'imposta i quali hanno già esaurito o stanno per esaurire il plafond annuale. E allora gli 80 euro anche ai cassi integrati, anche a chi riceve sussidi, ci sono le coperture, si continua a dire. C'è da dire che su questo il Fatto Quotidiano ha un titolo, insomma, forse un po' esagerato, 80 euro anche a morti, pensionati e cassa integrati. Vabbè, insomma, anche ai morti, manco Lazzaro, Renzi. Gli 80 euro anche ai morti, così titola il Fatto Quotidiano. Sta di fatto che questa è la novità sugli 80 euro più attesa e certamente che da ieri è uscita dalle agenzie, ora la trovate sui giornali. Per invece buttarci sulla pagina politica, tiene ancora banco la polemica sul presunto complotto che nel 2011 fece cadere il governo Berlusconi. Questo almeno è scritto in un libro del ex segretario del Tesoro americano, quando disse e scrisse Geithner che alcuni funzionari europei avvicinarono l'amministrazione Obama per dire facciamo in modo di non dare dei soldi all'Italia, non concedere soldi finché Berlusconi non se ne va. Berlusconi grida il complotto, ieri è intervenuto in maniera molto dura con una nota scritta di suo pugno il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Pagina 2 del Corriere Napolitano gela Berlusconi, ecco i fatti. Come racconta Marzio Breda, nessuna trama segreta, nessun complotto, nulla che abbia in qualsiasi modo coinvolto o solo lambito il Quirinale, dove tra l'altro non si ebbe notizia di pressioni e coartazioni subite dal Presidente del Consiglio nei momenti e nei luoghi di recente evocati. Di quello scenario, scrive ancora nella nota Napolitano, nulla fu mai portato a conoscenza del Capo dello Stato. Le dimissioni di Berlusconi, preannunciate l'8 novembre 2011 e formalizzate 4 giorni più tardi, furono liberamente e responsabilmente rassegnate e soprattutto non vennero motivate se non in riferimento a eventi politico-parlamentari italiani. Insomma, scrive Marzio Breda, più che sgradevole è insopportabile per Napolitano trovarsi nel tritacarne della campagna elettorale sgangherata, feroce, senza esclusione di colpi come quella in corso per le europee. Un assedio polemico che il capo dello Stato ha voluto spezzare con una nota scritta di proprio pugno nella quale stabilisce la sequenza di quella travagliatissima crisi. Precisa ancora Napolitano, Berlusconi ha lasciato senza che nessun nulla fosse scalfito, c'è stato il cambiamento con Monti, senza nessuna forzatura né tantomeno alcuno strappo al nostro ordinamento costituzionale. Berlusconi però attacca, non molla, come racconta nella pagina 3 nella cronaca Paola Di Caro, è la rabbia dell'ex cavaliere. Faccio comizi, ma devo ricordarmi che non posso attaccare la magistratura e il capo dello Stato perché mi dicono scherzi col fuoco e un passo falso potrebbe consegnarmi ai domiciliari o a San Vittore. Abbiamo motivi, però, ha detto Berlusconi, per essere furiosi, delusi e disgustati per quello che è successo negli ultimi 100 giorni. Ha parlato, e lo fa ancora una volta, di colpi di Stato. Dice: ho sopportato 4 colpi di Stato. Anche il giornale attacca duramente con un editoriale di Sallusti, Napolitano scappa con una nota di non inedita arroganza, si sveglia ma solo per dire che lui non c'entra. Vabbè, questo è per quel che riguarda Silvio Berlusconi, la polemica politica. C'è un altro tema politico che tiene banco invece in Parlamento, noi ne parleremo alle 8:15. È slittata, era prevista per ieri, la votazione dell'Aula che si deve esprimere sull'arresto di Francantonio Genovese, deputato del Partito Democratico, accusato di reati molto gravi, e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, peculato, truffa. C'è stata la richiesta d'arresto, la giunta per l'autorizzazione della Camera ha espresso parere favorevole all'arresto, ora si deve pronunciare l'aula dei parlamentari. Che succede però? Che siamo in campagna elettorale e quindi questo è un argomento, come dire, che potrebbe creare problemi. Immaginate mettere le manette o comunque arrestare un deputato del Partito Democratico. Immaginate che questo succeda durante la campagna elettorale, gli ultimi giorni di campagna elettorale. Tra l'altro, o si fa questa settimana, è calendarizzato questa mattina dopo il voto sulla riforma del lavoro, ma scrive Repubblica con Tommaso Ciriaco che una volta approvato il lavoro, a quel punto toccherà alla riunione dei capigruppo anticipare che cosa? L'esame del decreto casa, posticipando a questo il voto sull'arresto di Genovese. E siccome settimana prossima la Camera sarà chiusa perché per gli ultimi giorni di campagna elettorale sono sospesi i lavori, o si fa tutto entro domani oppure slitta tutto a dopo le elezioni. E questo, secondo tutti i giornali, secondo l'analisi unanime dei giornali, è l'obiettivo del Partito Democratico di Renzi, cioè non avere una patata bollente così scomoda da gestire in campagna elettorale. Arresto di Genovese, rinviato il voto, il Movimento 5 Stelle attacca il PD, è un potenziale latitante. Questo è il titolo di Repubblica, pagina 16. C'è anche un commento di Liana Milella che richiama in qualche modo il Partito Democratico alle responsabilità. Dice e scrive Liana Milella: due pesi e due misure, no, proprio non è consentito. Una per Berlusconi e per i parlamentari della destra, vedi Papa e Verdini, una per quelli del PD, vedi Genovese. Misura strettissima per i primi, decadenza, arresto, intercettazioni subito, e misura lasca per quelli del proprio partito. La regola deve valere in ogni momento dell'anno. Non si può mandare a Milano l'ex PM Cantone come garanzia di futura trasparenza e a Roma in Parlamento traccheggiare e ricorrere a escamotage sull'arresto di Genovese. Anche a Montecitorio sono necessari coerenza e coraggio. La prima vuole che Genovese sia giudiziariamente trattato come i suoi coimputati, tutti messi in carcere dai magistrati. Il PD vada immediatamente in aula e non si nasconda dietro al calendario. Il secondo, il coraggio, esige di affrontare a viso aperto i grillini sul voto segreto. Al Senato impose quello palese per la decadenza di Berlusconi, ora non ha altro da fare che seguire la stessa strada. Così Liana Milella, e ne parleremo alle 8:15. Tra l'altro c'è un altro giallo legato al Senato, legato in qualche modo al Partito Democratico, che è questo: ma Primo Greganti, coinvolto, arrestato nella vicenda dell'Expo, Primo Greganti frequentava il Senato, come dicono alcuni, ogni mercoledì, oppure era un fantasma? Perché a Palazzo Madama dicono non c'è alcun ingresso con il nome registrato Primo Greganti. Però ci sono testimonianze come quella del socialista Barani, che non ha dubbi: un mese fa l'ho visto al Senato, ne sono sicuro, l'ho visto mentre andava alla buvette con alcuni senatori del PD, credo fossero i senatori lombardi. Altri invece come Miguel Gotò dice fantasmi a volte ritornano, io qui non l'ho mai visto e mai sentito nominare. Tutti allora vanno da Sposetti, ex tesoriere del Partito Democratico. In questa caccia all'uomo, racconta Monica Guerzoni nell'articolo a pagina 9 del Corriere, e beh, tutti cercano Ugo Sposetti. Se cercate il compagno G, chiedete al compagno S, lo punzecchia un funzionario del PD alla presenza dell'interessato. L'ha presa bene, racconta Francesco Russo. Con me ha scherzato, Greganti è mercoledì e lo sto aspettando. Ma in realtà quando Sposetti viene avvicinato dice non lo frequento e non ho altro da dire. Vabbè, Greganti al Senato o no? Intanto continuano ovviamente gli interrogatori sull'inchiesta. L'imprenditore Maltauro, arrestato ai PM, dice, come racconta Repubblica, Frigerio mi confidò che Berlusconi era il suo referente, poi l'imprenditore ammette 1.200.000 euro, questo è ciò che ho dato alla cupola. Greganti invece garantiva gli interessi delle cooperative rosse. Continuano ovviamente gli interrogatori, come continua anche la vicenda dell'inchiesta a Scajola. Tra l'altro la notizia che viene data è che sono stati trasferiti gli agenti della scorta. E sulla vicenda Scajola, tra l'altro, c'è ancora, si vocifera, insomma, non solo l'ultima cena passata con l'avvocato Rosa Criscuolo, ma anche si vocifera e si fanno pettegolezzi sulla relazione tra lo stesso Scajola e la moglie di Amedeo Matacena, tanto che l'eurodeputata di Forza Italia Susi De Martini, medico e docente, diventata famosa perché qui alla Zanzara sulla Radio 24 ha fatto una lite epocale in diretta con la collega di partito anche, Licia Ronzulli, accusandola di essere candidata senza titoli, insomma organizzavi le feste a Berlusconi, e Licia Ronzulli ha chiamato in diretta dicendo ti querelo, insomma è finita veramente a malo modo. Ebbene, Susi De Martini, che viene intervistata da Repubblica proprio per questa lite con la Ronzulli, in realtà parla anche della vicenda Scajola e la liquida così: chercher la femme, insomma sono le donne, se fossi la moglie lo aspetterei fuori dal carcere con un bastone nodoso. Così l'eurodeputata De Martini consiglia alla moglie di Scajola di aspettarlo fuori dal carcere con un bastone nodoso. E vabbè, dopo gli aggiornamenti del traffico parleremo di Rai, i rapporti tra Renzi e il direttore generale Gubitosi paiono ai minimi termini, tanto che il direttore generale è pronto, visto che dice non mi riceve neppure, è pronto a dimettersi. Questo almeno racconta Repubblica. E poi di altro, ovviamente, state con noi. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan. Oh, sempre l'ascolto. Grandissimo, grandissimo come sempre il Gabibbo, che abbraccio tutto, anche se è gigante. E allora, dicevamo, rapporti ai minimi termini tra Matteo Renzi, il premier, e il direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi. Beh, c'è stato questo scazzo non indifferente tra Renzi e Floris a Ballarò, proprio sulla RAI, quando Floris diceva, lei chiede soldi, il governo chiede soldi alla RAI, 150 milioni, ma non a Mediaset. E Renzi gli ha fatto presente, ma la RAI è dello Stato, Mediaset è di un privato. E Floris, ma aiuta il concorrente della RAI, che è proprio Silvio Berlusconi. Insomma, e Renzi ha tenuto il punto. A un certo punto raccontano quello che è successo fuori le quinte, cioè finita la trasmissione, finita l'intervista a Renzi, racconta per esempio il Fatto Quotidiano a pagina 6, il titolo è Renzi giustiziere RAI, tira dritto. È finita che a un certo punto i tecnici dello studio si sono guardati in faccia, all'ennesimo attacco hanno deciso questa al PD non gliela perdoniamo. E allora appena Renzi ha mollato il microfono si è trovato davanti a brutti musi, lui voleva stringere mani, battere qualche cinque, ma la troupe, quindi i tecnici della RAI, hanno reagito male. Prima di accusarci, hanno detto al premier, di essere scansafatiche, dovrebbe documentarsi sulle nostre retribuzioni, sugli orari che siamo costretti a fare, con pagamenti irrisori di straordinari, la sua sulla RAI è pura demagogia, insomma lo hanno affrontato a brutto muso. Il nostro voto se lo può scordare, stai sereno Matteo. E lui, ritirando la mano, chi se ne frega, votate per qualcun altro, ha risposto. E il direttore generale della RAI, Gubitosi, fa sapere Repubblica, ha la sensazione di volersi dimettere quasi. Goffredo De Marchis lo scrive a pagina 17: meglio andar via se l'azionista non vuol parlare con il suo direttore generale. Secondo Repubblica, la sensazione di Gubitosi è proprio questa. Certo, i sacrifici devono farlo tutti, ma visto che c'è questo muro tra Renzi e il direttore, l'amministratore di Viale Mazzini lo cerca tutti i giorni, il premier sfugge, e allora Gubitosi è stato sentito dire: non è possibile che io non riesca a parlare col mio azionista, che ci sto a fare allora? Questo lo sfogo registrato da alcuni suoi interlocutori politici, e staremo a vedere. Chi invece non si dimette dalla RAI, nel senso ha deciso di non dimettersi perché è nelle sue prerogative, i due ruoli non sono incompatibili, è Luisa Todini, che ha deciso e ha comunicato: non mi dimetto dal consiglio di amministrazione della RAI, nonostante sia stata nominata presidente delle Poste. Todini: non lascio l'incarico in RAI. Attacchi bipartisan, questo è il titolo della Stampa, che dedica una pagina, pagina 7, a questo tema. Qualcuno ci faceva già un pensierino, almeno nelle segreterie di partito, ma Luisa Todini di lasciare il CDA della RAI non ha alcuna voglia, nonostante la fresca presidenza di Poste Italiane. Tra i due ruoli non c'è incompatibilità, io sono e resto un consigliere della RAI. Non c'è incompatibilità, c'è però una questione di opportunità, rivela per esempio Osserva il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola, ma Luisa Todini pare non voler cedere e dire: rimango consigliere della RAI oltre che presidente delle Poste. E a proposito di Poste e di dipendenti pubblici, voglio andare sul Messaggero, dove viene anticipata con Andrea Bassi quella che è la riforma della pubblica amministrazione che è attesa e che il ministro Marianna Madia sta mettendo a punto. In pensione un anno prima, la riforma Madia per gli statali. Il titolo è a pagina 3. 12.000 mail, un dipartimento dell'Università della Sapienza, quello di statistica, mobilitato per analizzarle tutte. La riforma della pubblica amministrazione in 44 punti annunciata dal governo Renzi va avanti. I punti in realtà sono diventati 45, perché ieri a sorpresa il ministro Madia ha aperto ufficialmente a un programma di prepensionamento per i lavoratori del pubblico. Il meccanismo allo studio, se ce ne sarà la necessità, sottolinea il ministro in una audizione alla Camera, prevede brevi anticipazioni rispetto ai requisiti della legge Fornero. Quanto brevi lo specifica la stessa Madia, 6 mesi o al massimo un anno. In realtà già esistono norme per il prepensionamento degli statali regolati da una circolare del Ministero della Funzione Pubblica, ma si tratta di uscite per mandare a casa personale in esubero che non potrà essere sostituito, mentre il nuovo piano riguarda la staffetta generazionale, cioè l'uscita di personale anziano per far posto ai giovani. Staremo a vedere. Intanto in un'audizione alla Camera questo ha detto. Per quel che riguarda la cronaca, beh, c'è cronaca giudiziaria che ha terremotato una banca, l'inchiesta UBI Banca, patto occulto e truffa, come titola a pagina 8 il Sole 24 Ore. Indagati Bazzoli per ostacolo alla vigilanza, Giampiero Pesenti per frode, insieme a diversi manager della banca, anche il CEO Massià, una non storia, si difende così, le nostre ragioni saranno capite, ma certamente questa è una notizia, tra l'altro proprio nel giorno in cui il consiglio di gestione di UbiBanca ha presentato i risultati trimestrali. 4 minuti dopo questa notizia data dalle agenzie, la notizia invece dell'inchiesta. E questo lo trovate ovviamente ben ampio su tutti i giornali. Una notizia di cronaca prima di concludere, ed è questa, riguarda ancora la vicenda degli embrioni scambiati tra coppie di genitori Alpertini. C'è una novità, come racconta il Messaggero, con Valentina Erranti, Adelaide Pierucci, a pagina 14. Embrioni scambiati, nessun reato. I giudici hanno archiviato. Per l'ospedale Pertini ci saranno solo sanzioni amministrative, ma questo è un importante risvolto per quel che riguarda le coppie coinvolte, le due coppie. potranno chiedere giustizia solo nel tribunale civile. La battaglia si combatterà lì perché dopo i sequestri delle cartelle cliniche interrogatori, l'inchiesta sullo scambio di embrioni va inesorabilmente verso l'archiviazione. C'è un vuoto normativo che non ha consentito ai procuratori di ipotizzare un reato a carico di chi per errore ha impiantato l'embrione fecondato di una coppia nell'utero di un'altra donna che tentava la fecondazione assistita. E dunque si va verso l'archiviazione. Si va verso il premio anche la carta costa. Ormai ci siamo, è a fine giugno, consegneremo la coppa e allora oggi devo dire che stravince con Roberto Perrone il Corriere della Sera, perché udite, a pagina 27 il Corriere è riuscito a fare un'intervista. E direte, beh, un'intervista. Chi è che ha intervistato? La Nutella. Non è uno scherzo, il Corriere intervista la Nutella. Buongiorno, signora Nutella, nei 50 anni della Nutella. Signorina, prego. Mi scusi, pensavo all'età 50 anni. Sì, ma non li dimostro. Mi scusi, ma lei è molto appetitosa. Non si è sfacciato. Un'intervista alla Nutella sul Corriere, intervistano la Nutella, ve lo giuro.